Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità. Dio, come ti amo, cantavano Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti dal palcoscenico del Teatro Ariston. Stranezze del Festival di Sanremo. L'avrebbero vinta loro quell'edizione del 1966, che pure avrebbe invece consacrato alla storia della nostra musica leggera ben altre melodie. A partire da quella che finì al secondo posto, scolpita dalle voci di Caterina Caselli e Jane Pitney. Nessuno mi può giudicare. So che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità ti fa male, lo so. Senza dimenticare poi che escluso dalla finale era stato addirittura lui, il molleggiato Adriano Celentano, e con quello che sarà uno dei suoi successi più celebri. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck. Entravano nelle case degli italiani le canzonette di Sanremo, mentre a migliaia di chilometri di distanza la televisione della Germania Ovest, il muro di Berlino era stato eretto nel 1961, dava notizia ai tedeschi dell'incidente aereo che da pochi minuti era accaduto sulla pista d'atterraggio dell'aeroporto di Brema. An einem Freitagabend um 18:56, nur 5 Minuten nach dem Absturz einer Verkehrsmaschine in Bremen, wurde es für die Rettungsmannschaften zur Gewissheit, dass es hier nichts mehr zu retten gab. Uno schianto terribile, nel cielo avvolto nella nebbia. Nessun sopravvissuto. Quella sera del 28 gennaio 1966, molti telefoni cominciarono a squillare anche a Roma, Venezia, Torino, Bologna, Trieste. Perché a bordo di quel convair della Lufthansa c'era la meglio gioventù del nuoto italiano, 7 talenti azzurri che avrebbero dovuto partecipare l'indomani al prestigioso meeting di Brema, il più importante appuntamento internazionale indoor del nuoto mondiale di allora. Amedeo Chimisso, mistista, 21 anni, Daniela Samuele, 17 anni, farfallista, Carmen Longo, 19 anni, ranista, Dino Rora, 21enne, dorsista e coetaneo della romana Luciana Massensi, i liberisti Sergio De Gregorio, 20 anni, e il 23enne Bruno Bianchi, triestino e capitano, accompagnati dal tecnico Paolo Costoli e dal telecronista TV Nico Sapio. Aronne Anghileri, esperto della Gazzetta dello Sport per gli sport acquatici, riceve la notizia dell'incidente nel modo più inatteso e imprevisto. Io non sono andato a Brema quella volta perché ero impegnato poi a Genova per la Coppa Campioni, che il Recco faceva un girone eliminatorio, e ci fu prima una partita di una squadra russa, e allora io andai al telefono per trasmettere poche righe su questa partita che precedeva quella più importante del Recco. Come vado al telefono, dalla Gazzetta mi dicono: il direttore vuol sapere cosa sa lei dell'aereo caduto a Brema. Non sapevo assolutamente niente, nessuno ne sapeva niente. Lo stesso Anghileri definiva così il valore tecnico di quella squadra, di quegli azzurri. Beh, era la squadra che pochi mesi prima, a settembre, aveva vinto a Roma il 6 nazioni dell'Europa occidentale, cioè una gara a squadre alla quale partecipavano la squadra sovietica e quelle dell'Est, ma tutte le migliori squadre dell'Ovest: Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Svezia. In quell'occasione l'Italia aveva vinto, sia pure con qualche errore di formazione, per un solo punto. Alla fine aveva vinto questo 6 nazioni. Era il miglior momento tecnico che l'Italia viveva dal 1958, quando si era vinto alcune medaglie ai campionati europei a Budapest. Era stato a lungo in compagnia della comitiva italiana in partenza per la città tedesca, Aron. Sono stato con loro per ore quei 2 giorni. Quello di Brema era il più importante meeting che si faceva allora durante l'inverno, in una piscina molto piccola, graziosa, di Brema, la Central Bad. Sole 5 corsie, con il pubblico

Su ogni feretro è posto un cuscino di rose, garofani e gigli con un nastro azzurro, il colore della maglia dei nazionali, con la scritta Comitato Olimpico Italiano. Una stele di cristallo verrà posta dinanzi alla piscina del Foro Italico a Roma a memoria di quegli azzurri. Purtroppo durerà poco, ricordava Anghileri. Purtroppo la stele era bella, elegante, ma fatta in cristallo e quindi fragile. Fu inaugurata durante il meeting importante dell'estate successiva, il trofeo Sette Colli. Fu inaugurata quella stele, io ero lì. Durante l'inverno non si sa bene quando la piscina era chiusa, quindi non si è saputo esattamente il giorno. Ci sono passati dei vandali che l'hanno distrutta. Aronne Anghileri si è spento a 87 anni nel 2015. La sua ultima battaglia, condotta con voce roca e in punta di penna, è stata quella per far ricostruire una nuova stele, inaugurata poi sempre al Foro Italico nel 2009 alla vigilia dei Mondiali di Nuoto di Roma. Così l'Italia ricorda ancora oggi quegli azzurri, i ragazzi di Brema. Olimpia, miti e verità dello sport. Addio, il buio dentro intorno, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno, la nostra casa vuota il sole inonderà e tu ci sarai e tu mi mancherai. Addio. Un legame, un affetto, un amore spezzato quella notte nel cielo di Brema, come nelle stesse ore cantava Iva Zanicchi sul palco di Sanremo. L'Italia si ferma e in quei gelidi giorni di fine gennaio del 1966 piange quei talenti del suo nuoto inghiottiti dal cielo tedesco. Sono allineati oggi in questo ordine: in prima fila la Massenzi, la Longo, la Samuele; in seconda fila Rora, Bianchi, De Gregorio; in terza fila l'allenatore Costoli, la recluta Chimisso, il nostro collega Sapio. I 9 sportivi caduti nei loro tumuli, quasi a formare un quadrato, sono vegliati da 4 campioni del nuoto in piedi, dritti, immobili agli angoli. Al ricordo di quei ragazzi si alzano anche le voci di scrittori, giornalisti, intellettuali. Pierpaolo Pasolini li ricorda così durante la trasmissione TV Sprint. Queste immagini che abbiamo visto ora e le immagini di questi ragazzi morti e sorridenti dei giornali sono un po' come certi particolari degli incubi che, una volta dissolto l'incubo, restano a galleggiare nella nostra memoria come qualcosa di doloroso e di ineluttabile ormai. E infatti che cosa possiamo dire? Di fronte a cose di questo genere, all'ultima disgrazia di Brema, a quella di Superga o tante altre che sono successe in questi anni, non c'è niente da fare se non disperarsi. E d'altra parte non c'è nemmeno nessuna ragione, nessun sentimento su cui far leva per consolarsi, per autoesaltarsi, per dimenticare in qualche modo la violenza brutale del dolore. Come un filo che si spezza, come sabbia che nessuno mai... Destini che si intrecciano in quel cupo cielo di Brema. Per chi da quel volo non farà mai più ritorno, altri non salirono su quell'aereo per pura casualità. Mariella Gattolin, bergamasca, oggi è un'intraprendente imprenditrice. Allora una promettente ranista. Io ero una ranista, sì, ero nella nazionale, prima giovanile, poi sono stata anche in nazionale A. E quindi avevano telefonato alla società qualche giorno, cioè so 10-15 giorni prima, come facevano abitualmente, per chiedere appunto di andare là, e io ero influenzata e quindi non ci andai. Quella sera, mentre le canzonette di Sanremo inondavano i salotti d'Italia, a casa Gattolin squillò il telefono. Mi ricordo che mi telefonò qualcuno per dirmelo e ovviamente rimasi scioccata, anche perché Infatti anche il giorno dopo io facevo il liceo, non so se facevo il ginnasio e il liceo in quell'anno. Comunque, cioè, veramente stavo male, perché era come aver perso in un colpo tanti amici e tante persone con cui avevo una frequentazione. Compagni di corsia, di piscina, di cloro, bracciate, di fatica, i ragazzi scomparsi a Brema per Mariella, che ci restituisce le emozioni di quelle amicizie, di quell'epoca ancora pionieristica per lo sport professionistico. Io posso ricordare per ognuno, cioè vedo in ognuno, cioè una caratteristica. Per esempio Daniela Samuele era abbastanza timida, Chimisso aveva appena incominciato ad entrare in nazionale, era uno che era un timidone. Conoscevo sia Rora che Bianchi che De Gregorio, ma siccome loro erano più grandi di me, li conoscevo in maniera sommaria, non li conoscevo bene, non avevo una conoscenza così approfondita come avevo per esempio per Carmen Longo o per Daniela Samuele, che comunque essendo di Milano la vedevo spesso anche in allenamento, perché io allora a Bergamo non c'era neanche la piscina coperta, quindi partivamo di sera, andavamo a nuotare a Milano, cioè delle cose. In quei periodi in cui c'era una nebbia allucinante, col nostro allenatore che ci portava avanti e indietro in macchina, eravamo sempre in 4-5. E praticamente tornando non trovavamo la strada per l'autostrada, non trovavamo la deviazione da Viale Zara, perché nuotavamo alla Cozzi a Milano, e non trovavamo la deviazione dalla nebbia che c'era, e mi ricordo che abbiamo chiesto a uno in bicicletta di accompagnarci all'ingresso dell'autostrada, perché non riuscivamo proprio a muoverci. Nel gruppo poi per Mariella un'amica particolare. Io ero un'amica di Carmen Longo, facevamo rana tutte e due, ci eravamo conosciute in occasione di un campionato italiano dove eravamo in albergo insieme e niente, avevamo familiarizzato, conoscevo anche la sua famiglia. Eravamo state varie volte in nazionale insieme, collegiali, proprio all'inizio di quell'anno avevamo fatto un collegiale invernale a Bormio, avevamo ulteriormente cementato un'amicizia, direi proprio. Sono passati 50 anni da quei giorni, da quella notte. Dall'album dei ricordi, dall'abisso del dolore, spunta la voglia di vivere di Carmen, il suo sorriso. Uno scherzo che sa di amicizia, complicità, allegria. L'anno precedente, credo, a un campionato italiano dove eravamo arrivate con un'altra nuotatrice che si chiamava Laura Schiazzari. Eravamo arrivate tutte e tre, prime, seconde e terze. Lei era arrivata prima in un'occasione, seconda in un'altra, e io terza. E siccome era un po' che la rana in Italia non aveva, cioè era un po' in disarmo, allora ci fecero una foto in acqua che poi andò in prima pagina sulla Gazzetta. E in quell'occasione lei era in mezzo e ci tirava sotto tutte e due, quindi è venuta una foto dove annaspavamo. Quella telefonata nella notte del 28 gennaio 1966 per Mariella Gattolin non annunciava solo il destino tragico di quelle vite spezzate, ma anche la fine di quei giorni allegri e spensierati, fatti di piscina, cloro, sogni, risate. Dopo quell'episodio, praticamente l'anno dopo, io facevo il liceo classico a Bergamo, dove tutte le volte che andavo a fare una gara dovevo telefonare alla figlia del preside che era in classe con me per chiederle se il padre aveva visto magari la televisione o quelle robe lì, perché sennò non mi giustificava. Quindi erano tempi in cui fare dello sport era E poi io andavo bene a scuola, non è che andassi male a scuola, per cui e quindi sono andata avanti un po' a nuotare poi nel 68, prima della maturità, ho smesso. Ci vorrà qualche anno dopo la stella di Novella Calligaris per regalare al nuoto azzurro le prime medaglie olimpiche e mondiali. E solo la generazione dei campioni degli anni 2000, quella dei Rosolino e dei Fioravanti, porterà a far germogliare i semi del nuoto azzurro strappati nel cielo di Brema. Massimiliano Rosolino, 60 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. È un'occasione per ricordare le persone che hanno fatto del nostro sport uno sport speciale, perché 50 anni fa, no, 60 anni fa, questi sono stati un pochettino i primi, no, a fare il nuoto ad alto livello con una programmazione, se vogliamo. Erano comunque degli altri tempi, però comunque gente che, se riportiamo i tempi che facevano al giorno d'oggi, i primi che hanno raggiunto delle finali olimpiche con la squadra, la staffetta, sono i primi assaggi di vera nazionale italiana. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.